Anche oggi parliamo di letteratura, di poesia, di teologia in vista del Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino, Parola e Mistero, la nona edizione. La scadenza è il 31 marzo, quindi c'è ancora tempo per le iscrizioni su parrocchiatorreglia.it. Sviluppiamo ancora qualche tema insieme a Don Giulio Osto. Ben ritrovato, Don Giulio. Buongiorno a voi. Un anno fa circa Milano ha ospitato un interessante convegno di cui si dà conto in una pubblicazione, quelli che si chiamano gli atti appunto del convegno, pubblicazione curata da Monsignor Pierangelo Sequeri, noto anche nell'ambito liturgico come compositore musicale, un convegno in cui si sviluppa appunto il rapporto, come abbiamo già detto la settimana scorsa, tra letteratura e teologia, parole e parola. Intendendo per quest'ultima evidentemente la parola di Dio con la P maiuscola. Esatto, un titolo a dir poco geniale, come possiamo anche attenderci da Sequeri, che è certamente creativo, ecco, da un punto di vista linguistico. Parole, maiuscolo perché siamo all'inizio della frase, e parola, altrettanto maiuscola, perché facciamo riferimento a quella della rivelazione, come sottotitolo Letteratura e Teologia. E questo contributo, questa raccolta di saggi pubblicata appunto nel novembre del 2016 dalle Edizioni Glossa di Milano, raccolgono, ecco, diversi contributi frutto di questo convegno promosso dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale nella sede di Milano, dedicato proprio al rapporto tra letteratura e teologia. Ecco, un titolo invertito rispetto al precedente contributo di Marco Ballarini, che invece si intitolava Teologia e Letteratura. Ecco, interessante che una facoltà di teologia si occupi di questo tema, rimettendolo, ecco, nell'agenda, ecco, della nostra riflessione. La scansione dei vari contributi, infatti, ci dà modo di guardare come questo tema si può un po' esplorare. Inizia innanzitutto, appunto, già citato Marco Ballarini, che fa emergere come, appunto, soprattutto nel Novecento ci sia stato un grosso interesse per la letteratura da parte di alcuni grandi teologi, grandi sia per la quantità di produzione sia per l'importanza del loro pensiero, che è ancora quanto mai attuale. Ecco, li cito ancora, prima di tutti Romano Guardini, che tra l'altro è nato a Verona, è venuto per 40 anni in vacanza a Isola Vicentina, quindi lo possiamo sentire come un nostro teologo veneto, anche se ha scritto tutto quanto in tedesco perché lavorava in Germania. Ecco, Romano Guardini, poi Hans Urs von Balthasar, teologo svizzero, Karl Rahner, teologo tedesco gesuita, e ancora i due ancora viventi, Hans Küng, teologo svizzero, e Jean-Pierre Jossua, domenicano francese. Ecco, per dire, cinque nomi di teologi che hanno dedicato alla letteratura anche ampi saggi e studi. Ma questo libro, appunto, Parole e Parola, poi presenta altri saggi, altri contributi che esplorano gli intrecci tra letteratura e teologia. Per esempio, un importante contributo di Ferruccio Parazzoli, ecco, un nome noto al pubblico italiano per l'editoria, anche per il rapporto noto con il Corriere della Sera. È un'interessante esplorazione che mette in luce il cosiddetto grande codice, che è quello della Bibbia, esplorando due studi importantissimi che nel Novecento hanno fatto emergere come appunto la scrittura sia il grande codice di tante altre scritture. Ecco, per citare il contributo di Erich Auerbach, professore di letteratura comparata a Vienna, che disse a più di 30 anni fa che i due grandi codici, ecco, della letteratura europea sono la Bibbia e l'Odissea. E questa espressione, grande codice, fa riferimento a un importante studio invece di Norton Frey, uno studioso statunitense, che appunto rileva come la Bibbia sia stata sempre matrice di tante storie letterarie. Ecco, quindi questo è il contributo di Riccardo Castellana in questi atti molto interessanti, che appunto fa conoscere queste due analisi di Auerbach e Frey. per poi continuare, ecco, con altri aspetti, per esempio l'aspetto dell'umanesimo, per cui il Rinascimento cosiddetto è anche la riscoperta delle lettere classiche, oppure l'aspetto della narrazione così tanto valorizzato, pensiamo anche alla catechesi, al fatto che una storia raccontata, che comunque è letteratura, attiva l'immaginazione, attiva i sentimenti, attiva le emozioni. Cominciare un incontro con una storia è sempre molto meglio che cominciarlo con un sillogismo, per dire. E quindi la narrazione ha a che fare con la letteratura. Pensiamo per esempio al fatto, al grande successo delle tante storie di Bruno Ferrero, che hanno influito di più nella catechesi degli ultimi decenni che non altre proposte. E si tratta di letteratura, si tratta di creazione letteraria. Ecco, il fascino perenne della narrazione, dalla Bibbia alle storie di oggi. E ancora un altro contributo sul mito. Ecco, il mito ci porta dentro a quell'aspetto tra letteratura e teologia che mette in confronto queste due discipline che si incontrano benissimo nella sfera simbolica, perché la teologia è un discorso su Dio che parte dalla preghiera, dalla scrittura, la letteratura ci parla della realtà attraverso dei racconti che noi chiamiamo anche miti. E poi gli ultimi due contributi sono dedicati a un grande studioso della Bibbia, scomparso recentemente, un gesuita francese, Paul Beauchamp, che appunto ha una grande produzione di studi biblici con una forte attenzione anche all'aspetto letterario. Non poteva mancare, a conclusione di questo volume, ecco, due testimonianze poetiche di persone che hanno fatto della parola una loro attività. Ecco che quindi questo volume, edito da Glossa, Parole e Parola, Letteratura e Teologia, si conclude con gli interventi dei due poeti Franco Loi e Giovanni Costantini. Allora, è un testo che vi segnaliamo anche per la vostra riflessione personale. Ringraziamo Don Giulio Osto per avercelo presentato. Grazie Don Giulio, buona giornata. Buona giornata a voi, alla prossima.